Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, siete di nuovo all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, la trasmissione che non va in ferie e continuerà ad accompagnarvi durante i mesi estivi per portarvi le voci della galassia animalista, antispecista e vegan, impegnata a costruire una società senza crudeltà. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Ilaria Beretta, Valentina Reggioli, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnino. La notizia della settimana a livello di cronaca è la morte dell'orso polare più triste del mondo, che dal 2012 viveva solo dopo la morte della sua compagna nello zoo di Mendoza in Argentina, dentro uno spazio a dir poco inadeguato, in totale solitudine, esposto a temperature altissime fino a 40 gradi e con a disposizione una minuscola piscina che non ricordava neanche vagamente l'habitat polare per il quale si sono evoluti fisicamente e biologicamente, ma anche psicologicamente, questi animali. La notizia, che non sappiamo definire bella o brutta, dipende dai punti di vista, ci riporta a una notizia vicina nello spazio e nel tempo, ovvero quella dell'annunciata chiusura dello zoo di Buenos Aires, capitale dell'Argentina. È una notizia che risale ad alcune settimane fa, il superamento dello zoo di Buenos Aires, ma abbiamo deciso di cogliere lo spunto della morte dell'orso di Mendoza per approfondire questa questione, dando spazio alla nostra speranza di vedere con la chiusura, la fine, il superamento dello zoo di Buenos Aires, l'inizio del definitivo tramonto dell'idea stessa di zoo. Vi proponiamo un approfondimento storico sugli zoo e sui collegamenti di queste strutture con la condizione umana e il servizio a cura della nostra Camilla Lattanzi. Che dopo 140 anni di attività lo zoo storico di Buenos Aires chiude i battenti. Verrà convertito in un rifugio per gli animali in difficoltà, mentre tutti gli altri, tutti quelli che possono permetterselo per il loro stato di salute, per le loro condizioni anche psicologiche, verranno trasferiti in riserve naturali. Questa notizia è ovviamente una bella notizia, prima di tutto per gli animali che sono stati costretti per così tanti anni a una vita di segregazione, di disperazione, di noia, e in secondo luogo per le persone, soprattutto per i bambini, perché non c'è niente, diciamolo, di più diseducativo che mostrare la nostra capacità di tenere segregati i più deboli, chiudendo degli esseri viventi liberi in delle gabbie in nome di una presunta superiorità morale o in nome di presunti scopi scientifici. L'ultimo orso polare dello zoo, che si chiamava Winner, è morto 3 anni fa a causa di una ondata di calore. Pensate, un orso polare che doveva vivere a più di 40 gradi, ma anche per lo stress dovuto ai fuochi di artificio, perché, come sappiamo, ormai i giardini zoologici sono diventati dei parchi di divertimento e quindi sono sempre uniti ad altri tipi di intrattenimento. Oltre agli animali ci sono giostre o ci sono appunto fuochi d'artificio o altre amenità. È molto interessante l'affermazione di Horacio Rodriguez Larreta, sindaco della capitale argentina, che ha spiegato la sua decisione di non rinnovare il permesso al giardino zoologico dopo 140 anni, dicendo che la custodia di animali selvatici in cattività allo scopo di esporli al pubblico è degradante e non è il modo per prendersi cura di loro. Ma andiamo un po' a vedere qual è l'origine del concetto stesso di zoo. uno dei primi zoo di cui abbiamo conoscenza è in Centro America, in Messico, lo zoo di Montezuma, dove curiosamente oltre agli animali non umani c'erano anche animali umani, quindi venivano mostrati insieme agli animali anche nani, albini e gobbi. Lo zoo anticamente era un simbolo di ricchezza, un simbolo della supremazia umana sulla natura. Nell'era coloniale era appunto il simbolo della capacità dell'uomo di spostarsi nello spazio, di scoprire, di impossessarsi della ricchezza anche ecologica di altri continenti. Poi il ruolo dello zoo è un po' cambiato, tra il 700 e l'800 si è spostato più verso lo scopo scientifico, scopo quindi educativo, fino ad arrivare nel 900 a uno scopo quasi più ludico, di intrattenimento, e oggi come sappiamo gli zoo sono quasi dei parchi di divertimento. Nonostante le norme europee non lo consentano, però invece gli zoo sono diventati questo. Ma non si parla abbastanza della esistenza di human zoos, quindi di zoo umani, che invece nella storia ci sono stati purtroppo vergognosamente, anche abbastanza recentemente. E appunto il primo caso che si registra è quello dello zoo di Montezuma, come abbiamo detto, nani, albini e gobbi trattati come fenomeni da baraccone. Nel Rinascimento i medici attrezzarono un giardino zoologico in Vaticano e nel 1500 si ha notizia che Ippolito dei Medici aveva una collezione di animali e di persone esotiche. Quindi c'erano animali esotici ma anche persone come per esempio i barbari, alcuni quindi abitanti di altri paesi che venivano conquistati. Un esempio angosciante è quello di Sarah Bartman, una delle due donne Koi Koi che sono state esibite in vari freak show in Europa. In particolare Sarah era famosa come Venere Ottentotta ed esposta a Londra a inizio 800 in più situazioni. Queste donne che venivano da queste tribù, Koi Koi appunto, avevano la particolarità di avere dei glutei molto appariscenti e di avere anche la forma della vulva molto particolare, e queste donne venivano così esibite per queste loro forme fisiche. Ora naturalmente la cosa è imbarazzante, è degradante, questa donna tra l'altro è finita alcolizzata dopo essersi prostituita. Un altro caso è quello di Ota Benga, che nel 1906 è stato esposto nel zoo del Bronx a New York assieme a delle scimmie e ad altri animali come scimpanzé, pappagalli, eccetera, e definito anello mancante, quindi al servizio dell'eugenetica. La storia degli zoo è insomma indicativa di un percorso di sopraffazione e discriminazione che appare sempre più anacronistico. Abbiamo chiesto al professor Antonio De Marco, biologo, evoluzionista, ricercatore del CNR e collaboratore del CITES, che dal 2000 coordina progetti di conservazione faunistica e ricerche sul benessere animale, di commentare per noi la notizia della chiusura dello zoo di Buenos Aires. La cosa che mi ha colpito positivamente non è tanto il fatto che diciate si chiude uno zoo, no, perché la chiusura dello zoo è stata accompagnata da una dichiarazione in cui tutto sommato si dice, si riconosce che gli animali non possono stare in certe condizioni, che quelle condizioni in cui stavano non sono più accettabili, che si deve fare quindi un percorso opposto, bisogna sistemare in questi animali, dare una collocazione più idonea. Quelli che non sono in grado di essere rilasciati devono essere collocati in una situazione migliore. Cioè una serie di riconoscimenti che mi pare l'elemento più importante, forse ancora più importante del fatto che si dice che lo zoo viene chiuso. Bisogna vedere se poi alle parole seguono i fatti, insomma, però è un buon inizio. Io direi che in quella direzione devono muoversi anche strutture che sono più avanti, se vuoi, rispetto al zoo di Buenos Aires, e in alcune strutture questi passi li hanno fatti. E lì il problema è sempre però porre la dignità dell'animale come l'elemento principale, perché poi non dimentichiamoci che strutture che sembrano così avanzate, penso allo zoo di Copenaghen, però poi abbiamo assistito al massacro là delle giraffe e dei leoni, beh insomma, magari c'hanno degli arricchimenti ambientali, delle cose insomma positive, però poi la dignità dell'animale dove va a finire se tu l'animale me lo uccidi perché non rientra nel programma genetico della di conservazione, eccetera. Beh, insomma, di nuovo viene riproposta una distinzione tra mondo umano, mondo animale, come se fossero due entità completamente diverse. Le regole per gli uomini sono di natura completamente diversa rispetto alle regole per gli animali. Io credo che invece vada seguita una logica di continuità. Non dico che debbano essere le stesse, però siccome esiste una continuità nel mondo animale e noi facciamo parte di quel mondo, non possiamo chiamare l'uno bianco e l'altro nero, ci vogliono delle gradualità e queste gradualità in quel caso sono completamente venute a mancare. Durante il periodo estivo, chi può va in ferie e riesce a ritagliarsi qualche spazio di relax, magari dedicandolo anche alla lettura. Per non lasciare la questione animale segregata nello spazio radiofonico, abbiamo deciso di proporvi una rubrica dedicata a una selezione di libri che potreste leggere in vacanza. Si parte oggi con un saggio dell'antropologa Anna Maria Rivera, dedicato agli animali più amati d'Italia, ma osservati in un luogo che per l'appunto è anche meta di molti vacanzieri italiani, cioè il Marocco. La recensione è a cura del nostro Lorenzo Guadagnucci. Anna Maria Rivera, una voce nota agli ascoltatori di questa trasmissione, è un'antropologa molto rigorosa, oltre che un'attivista di lungo corso nel campo dell'antirazzismo e della lotta alle discriminazioni di genere. Stavolta, nel suo nuovo libro, La città dei gatti, antropologia animalista di Essaouira, pubblicato da Dedalo, si è cimentata in un'impresa davvero unica, e cioè un'etnografia di questa anomala città marocchina, un'etnografia che include nello sguardo della studiosa anche la componente animale. E in particolare Anna Maria ha concentrato l'attenzione sull'interazione esistente in città fra cani, gatti, gabbiani, fra di loro, e rispetto agli abitanti umani. È un approccio assolutamente originale. La città dei gatti può essere definito come un reportage antropologico non convenzionale su un luogo che a sua volta è non convenzionale. Essaouira si trova sulla costa atlantica del Marocco, è stata la città della controcultura. Vi sono passati personaggi come Frank Zappa, Leonard Cohen, Judith Malina e Living Theatre, ed è anche una città plurale per le sue origini storiche, religiose. La comunità ebraica vi ha sempre svolto un ruolo preminente e la componente berbera è sempre stata altrettanto importante di quella araba. E quindi la cultura della città è un insolito intreccio di queste tradizioni. Tutto ciò probabilmente ha a che vedere anche con l'attitudine che Anna Maria descrive nel libro a intrattenere relazioni molto particolari, molto intense, con la componente non umana della popolazione. L'attenzione è concentrata sulla cura che hanno i cittadini del luogo per cani e gatti, una cura che riguarda non il ceto benestante locale, ma più spesso i poveri e i poverissimi. L'antropologa in sostanza documenta l'esistenza di un vincolo di solidarietà transspecifica. Molto interessante nella parte iniziale e centrale del libro anche l'analisi dei precetti islamici rispetto alle relazioni da intrattenere con gli altri animali. Anna Maria Rivera demolisce in questo libro tutti gli stereotipi e i luoghi comuni e mostra come le indicazioni religiose siano in realtà poco rigide, sono così interpretabili che spesso si arriva addirittura a un ribaltamento, ad esempio della avversione per i cani o del disinteresse per i gatti, che si ritengono tipici della cultura arabo-musulmana. Una relazione molto speciale è quella poi che Anna Maria e suo marito hanno intrattenuto con due gabbiani, Jamel e Fatima, due gabbiani che hanno ritrovato nel corso del tempo e dei successivi viaggi sul terrazzo della loro camera d'albergo. Anna Maria Rivera arriva a spendere la parola, sia pure fra virgolette, amicizia, per descrivere la possibilità di intrattenere una relazione di empatia, di collaborazione, di consuetudine amichevole, appunto, anche con dei volatili, qualcosa veramente di singolare. Naturalmente non dobbiamo pensare che Essaouira sia il paradiso degli animali. Anche in quella città si uccidono animali, ci si nutre di loro, si praticano i cosiddetti sacrifici rituali religiosi nel periodo dell'Eid, scorre il sangue anche ad Essaouira. E però questa città evidentemente mantiene anche una riserva di alterità rispetto a consuetudini e a precetti che saremmo portati a ritenere più rigidi di quello che sono in realtà. Il contributo scientifico che offre la città dei gatti è nell'approccio che Anna Maria Rivera ha scelto. Includere nell'osservazione diretta, nell'etnografia della città, tutti gli abitanti, umani e non umani. Come scrive in un passaggio del suo libro, penso che all'antropologo spetti non già rimuovere, ma includere nel proprio campo di ricerca la presenza, la sofferenza, la morte degli animali e nel contempo integrare i dilemmi, renderli espliciti, mantenerli aperti come parte della propria stessa ricerca. La città dei gatti è forse un libro apripista, un caso potremmo dire di antropologia antispecista, una locuzione che sembra contraddire se stessa. E d'altra parte c'è molto da innovare nelle scienze sociali e nel loro modo di guardare al mondo. Anna Maria Rivera, La città dei gatti, edizioni Dedalo, 197 pagine, 16,50 euro. Sometimes you get so angry with simple life they lead. The shepherd smile seems to confirm my fears. They've never questioned anything, never disagreed. Sometimes I think they must have woven their ears. Per vincere la calore e attenuare il senso di arsura che ci attanaglia, il nostro tosco vegan chef Gabriele Palloni ne ha inventato un'altra delle sue. Prendete carta e penna perché stiamo per somministrarvi la ricetta più fresca e piccante mai proposta dalla rubrica di cucina Il Pasto Gentile. Il Pasto Gentile, un frigorifero senza crudeltà. In questo caldo, specialmente in cucina, ci si squaglia proprio come un ghiacciolo. Quindi, per restare in tema, ecco a voi la ricetta dei ghiaccioli al ginger. Gli ingredienti sono una bella radice di zenzero fresco, mezzo litro di acqua, succo e la scorza di un limone non trattato, 100-150 g di zucchero di canna o altro dolcificante. Mettete lo zucchero di canna nel succo di limone e lasciatelo sciogliere. A parte, sbucciate la radice di zenzero e tritatela. Unitela a mezzo litro di acqua e fate bollire. Togliete dal fuoco e aggiungete le scorze di limone e fate raffreddare a temperatura ambiente prima di far riposare il tutto un'ora in frigorifero. A questo punto filtrate l'acqua dallo zenzero e le scorze di limone e unite il succo di limone e a piacere qualche foglia di menta. Potete servire già in questo modo un'ottima bevanda rinfrescante, magari aggiungendo qualche cubetto di ghiaccio. Ma potete anche fare un passaggio ulteriore versando il liquido in appositi stampi da ghiacciolo, oppure anche vasetti vuoti di yogurt di soia. Inserite uno stecco centrale e fate congelare in freezer, magari aggiungendo qualche fragolina di bosco, ribes o mirtillo, e servite un bel ghiacciolo tonificante. We'll be right back. trascinato un capretto vivo e con le zampe legate, per chilometri, legato con una corda al proprio scooter. Una donna, inorridita per i beati disperati dell'animale, si è messa in auto davanti allo scooter, obbligando l'uomo a fermarsi. Sembra che i passanti abbiano minacciato fisicamente l'uomo e che siano anche volati dei ceffoni. E poi è intervenuta la ASL che, con modalità certo non umane e delicate, ha messo la povera bestia su un furgone senza nemmeno sciogliergli le zampe. Il suo destino comunque sarà quello di tutti gli altri suoi simili, cioè quello di venire ucciso e macellato. Resta lo sconcerto per la volgarità della scena e per l'inutile sofferenza aggiunta a una sorte già di per sé abbastanza triste e dolorosa. Vogliamo aggiungere una riflessione rispetto a questo episodio. Quando vediamo i camion che trasportano animali vivi destinati al macello nel loro ultimo viaggio prima del mattatoio, non sarebbe forse compassionevole e giusto fare la stessa cosa che ha fatto la donna di Marano? Certo, la scena è meno truce, meno evidente, meno sconvolgente, però la sostanza, diciamocelo, purtroppo è sempre la stessa. Finché gli animali saranno considerati come merci e come cibo, alla luce del sole o meno, sarà sempre possibile far loro tutto il male del mondo. Dopo la terribile notizia del capretto trascinato da uno scooter a Marano, restiamo in tema di ovini, risalendo lungo lo stivale da Napoli a Roma per darvi conto di un episodio interessante e un po' paradossale accaduto alla spiaggia di Tor Vaianica. Domenica 3 luglio un bagnante è stato multato in quanto aveva portato in spiaggia la sua pecora da compagnia con tanto di guinzaglio affinché non si allontanasse dall'ombrellone. Ai bagnanti di Tor Vaianica questa scena, così simpatica e curiosa, però non deve aver fatto lo stesso effetto che fa a noi e quindi hanno allertato i vigili urbani di Pomezia, i quali, senza fare tanti discorsi, hanno multato l'uomo per violazione del regolamento comunale che impedisce in estate di portare animali domestici in spiaggia ed è stata subito allertata l'ASL locale per i successivi controlli. Abbiamo più volte intervistato nella storia di questa trasmissione famiglie che trattano come animali domestici maiali, cinghiali, caprette, galline e altri animali che solitamente sono definiti da reddito. E siamo assolutamente solidali con il signore di Pomezia che convive con la sua pecora. È forse l'ora di smetterla di pretendere che chi convive con animali, rispettandoli senza forme di sfruttamento, si debba piegare a registrarsi come allevatore, cosa che attualmente è obbligatorio fare per questi tipi di animali. Speriamo che episodi come questo si moltiplichino in modo da modificare nel tempo la cultura, il costume e le normative vigenti. Alcuni bagnanti magari inizialmente penseranno di avere le allucinazioni, ma poi con il tempo si abitueranno a vedere balneare in spiaggia vitelli, galline, maiali e altri animali. Shining, little light will guide them to me. Il 5 luglio scorso è stato il 20° compleanno della clonazione della pecora Dolly, il primo mammifero a essere stato clonato con successo da una cellula somatica, in questo caso una cellula mammaria, da cui il nome Dolly, ispirato alla pittoruta artista statunitense Dolly Parton. La clonazione di Dolly segnò un nuovo stadio nell'evoluzione dello sfruttamento dell'uomo sugli animali, in particolare quelli da reddito, che con l'applicazione delle tecniche di clonazione si sono spostati bruscamente da esseri senzienti e portatori di diritti in macchine animali da reddito e da profitto. Le fattorie biotecnologiche, secondo Anna Maria Procacci, consigliere nazionale di EMPA, Ente Nazionale Protezione Animali, rappresentano il perfezionamento in negativo degli allevamenti intensivi. Anna Maria Procacci è stata protagonista della battaglia contro la clonazione e le manipolazioni genetiche operate sugli animali e ci ripromettiamo di intervistarla presto su questo tema. Dolly è morta il 14 febbraio 2003, è stata imbalsamata ed è tutt'oggi visibile presso il National Museum of Scotland. Ma che mu, rubrica di musica per animalisti, antispecisti, vegan e non solo. Visto le notizie, alcuni brani musicali di oggi hanno per tema lo zoo. In particolare dedichiamo lo spazio di Ma che mu a un brano contenuto in una colonna sonora del 1971 che, visto l'argomento scabroso, la nostra Camilla avrà sicuramente visto e commentato nel secolo scorso. Parliamo di Percy, il complesso del trapianto, che narra in modo grottesco e un po' surreale le vicissitudini di un uomo a cui viene trapiantato il pene che lui affettuosamente chiama Percy. Nella colonna sonora affidata ai mitici Kings troviamo un brano che apriva il lato B dell'album dedicato agli animali rinchiusi, che si chiama Animal in the Zoo, e quindi facciamo un tuffo nel passato per ritrovare un tema purtroppo ancora attuale. Buon ascolto! E come sempre passiamo in rassegna le voci che hanno realizzato questa puntata di Restiamo Animali, e che sono quelle di Antonio De Marco, Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Pecore Capretti, Clonati e Non, i Kings, Giuseppe Coco e la super clonatissima e pettoruta Camilla Lattanzi. L'appuntamento con Restiamo Animali è tra una settimana esatta. Stesse onde, stessa ora. Fotografie, ricette, interviste, approfondimenti e il podcast di questa e di tutte le precedenti puntate nel nostro blog restiamoanimali.it. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.